amico del mondo, è qui che nasce l'energia. Nella notte dei tempi dove non c'è tempo, non c'è luce, non c'è mare nel tempio, poco spazio compresso, non c'è bene né vento, niente musica, o almeno io non ne sento. Vuoto, vuoto, totalmente vuoto, niente file per il voto, niente mente per il loto, completamente nero, davvero, dove eravamo? Sull'albero della vita, su verso l'ultimo ramo. Struttura, qualcosa mastica la cucitura, usa i denti come sadico strumento di tortura, prima di Lemuria, del sole e della luna, prima delle rime, dell'hip hop, della cultura. Notte, acido, dormire niente male, né nulla primordiale, né silenzio più totale. Sale dal più vasto per esplodere qua giù, il sigillo number one viene giù e rima aliena, sale su. Vasto, stretto, vuoto, luce, bene, male, buio, tutto ancora ignoto. Vuoto, colma, vuoto, ma il vuoto rimane, non c'è ancora nulla, quindi non ci puoi pensare. No. Vasto, stretto, vuoto, luce, bene, male, buio, tutto ancora ignoto. Vuoto, colma, vuoto, ma il vuoto rimane, non c'è ancora nulla, quindi non ci puoi pensare. Yo. Vuoto, il nulla è tutto attorno, non ci penso e non esisto perché ancora dormo. L'alba del primo giorno è ancora persa tutto attorno, mentre un grosso bang ha dato luce al buio eterno. Tutto quanto è fermo, tutto quanto è spento, non ci sono onde, non c'è un soffio di vento. I pilastri della terra non sono fatti di cemento, senza l'uomo nell'eterno vuoto non lo invento. Siamo un videogioco che hanno dato la corrente, per la prima volta ci hanno acceso veramente. Non siamo la vita ma il giochino di un latante, in un angolino della casa di un viandante. Passi da gigante, ma non siamo niente, come quando cade un albero e nessuno lo sente. Vuoto ancora più vuoto nella mente della gente, siamo cavernicoli dall'anima aberrante. Vasto, stretto, vuoto, luce, bene, male, buio, tutto ancora ignoto. Vuoto, colma, vuoto, ma il vuoto rimane, non c'è ancora nulla, quindi non ci puoi pensare. No. Vasto, stretto, vuoto, luce, bene, male, buio, tutto ancora ignoto. Vuoto, colma, vuoto, ma il vuoto rimane, non c'è ancora nulla, quindi non ci puoi pensare.